Ma è la seconda edizione di un progetto di performance che mette i giovani al centro e ci mette noi adulti o esperti, istituzioni, dal lato di chi ascolta. Quest'anno la performance si chiama Relazioni ed è sui disturbi alimentari, dopo che l'anno scorso è stata sul bullismo, ed è sempre una buona occasione perché abbiamo fatto una call volontaria, abbiamo raccolto decine di giovani che hanno raccontato le proprie storie, che ci aprono una finestra. Quindi l'invito è di venire al Mambo dalla prossima settimana, diciamo da sabato alla prossima settimana, per vedere, scoprire e indagare un fenomeno che a molti non è conosciuto, ma che fa parte della vita dei nostri giovani. Sono stati reclutati attraverso decine di manifesti che, grazie a TPR, una campagna di informazione che abbiamo fatto, abbiamo diffuso sia tutta la città, che nelle pensiline che negli autobus. Hanno risposto dei giovani in una fascia d'età variabile, diciamo maggiorenni, però con un'età molto variabile, con storie molto diverse, e la performance che vedremo sabato, che poi diventerà una mostra fissa, ci racconta un po' le loro storie, ovviamente, come dire, raccontate, ascoltate, divulgate in una maniera innovativa che fa parte dell'approccio museale e del progetto. Chi deve venire ad assistere a questa performance? Io credo tutta la cittadinanza, perché è un modo veramente, veramente una finestra per ascoltare dei fenomeni che ci sembrano lontani, ma che fanno parte della vita dei ragazzi e delle ragazze, e quindi la vita di tutti i giorni e della nostra comunità.